bisogna tenerla leggermente più bassa. E vabbè, dai, adesso momentaneamente diciamo questo, già va bene, poi metterò per un altro, mi domi, metterò per un altro, capito? Glielo piattiamo, dai che commuto altro. Capito com'è? Tutto qua, questo invece è l'MC60, dai. MC60 c'ha la cuffia di soffio e meno non desta, portami, perché l'MC80 c'ha il processore della radio, in più c'è la regolazione anche del volume, la regolazione del volume della preamplificazione, ed è per quello che troppo non va bene, capito? L'80 è come l'85 mio Sandro, e col compressore io non lo posso usare perché già è forte così senza compressore, a cosa serve? Mi prendo un altro MC60 e lo attacco al 140, è quello che ciò che ho fatto, do questo in cambio e prendo quello là, capito? Tanto è sceso tantissimo l'MC60, 120 euro, questo mi pare questi 110, quindi non c'è problema. Un platto nuovo, vabbè, pazienza, non ce n'era. Tu ce l'hai l'MC60? Tigre contro tigre, ce l'hai un MC60? Registrato Greco, no caro. E allora vado, dico Giampaolo, mi. Questo va bene, questo va bene col 430, questo col 430 mi dava delle ottime soddisfazioni, un bel forte, perché il 430 c'ha il processore più grosso, mentre invece col 140 è forte, perché è forte, la modulazione l'ho già sentita, però io non riesco a portarla, devo tenere il mic molto molto basso. Avanti il break. Non c'era un break. Non so. Chi era Sandro? Sandro? Dove sei, Domi? Aspetta che lo faccio sentire, sbagli. Dimmi, ciao. Cos'hai? Che cosa nuova? Ma vuoi un ruscio? No. Sono i fischietti, dai. Ah, i fischietti. Sempre a porta chiave. No. Sono i fischietti che adesso ci serviranno per le squadre. Ahia, gappa. E Giampaolo come non è entrando più, Sandro? Non ho capito, Claudine. Ho detto Giampaolo come mai non sta entrando più in radio, non lo sento più. Non lo so, guarda, l'ho sentito quando. Mi sembra che l'ho sentito stamattina, ho fatto giusto una chiamata stamattina e ci siamo sentiti un attimino. Ehi, tanto non lo sento più. Allora faccio un colpo di telefono a salutarlo. Beh, signori belli, io vi auguro buon proseguo, vado a farmi una mangiatina, se c'è qualcosa da mangiare. Fatevela buona per te, Alessandro, per tutti quelli che ascoltano. Domenico, un abbraccio grande, fate la buona che tu, buon rientro, buon tutto. Se coincide ci sentiamo più tardi, se non riesco a prendere un po' d'aria sono a casa. Ok, riprendi da me. Saluta Domenico Tardanetto, dai, che è nella zona già di Saccaggia lì, e quindi è un po' in difficoltà per quella zona tua. Ti saluta e ti abbraccia forte. Ciao Domenico, ciao Sandro, alle prossimine, ciao a tutti. Ok, dai, saluto a tutti, buona carica, dai, Tardanetto, se mi ascolti sarà un po' difficile, tutte le prossimine. Ciao Sandri, ciao, alle prossimine, ciao a tutti. Come quindi non mi vengo perché sta andando, mi sono tagliato un pezzo di carta e ha dovuto pagare un prezzo. Ma se la prima luce va bene lo stesso. Pagava, Quindi avanti che pagava. Che pagava? Avanti, sta facendo male già, Male sto facendo. A me non mi piace. Vabbè. Non c'è radio, è proprio strana, mi sembra dentro un barattolo. Un mio parere, poi fai lasciala così. Ma non si lo riesce tutto. Io? Sì. Come anche io lo sto ascoltando. Stavo al 140 tu per dare i controlli. No, ora al 48, non è affidabile, te l'ho già detto. E io lo sento male, anche se io attacco il 140, lo sento male, al 100%, lo riesco a mettere. Quindi mi ha è benissimo, amplificato, perfetto. Thank you.

capito, un panno di salsa e dei dolci. Voglio andare, sì o no? No, cosa vengo a fare? Cosa vengo a fare? Io non mangio, cosa? Ui. Ci organizziamo un'altra volta, qua. Ci organizziamo, andiamo, ce la mangiamo, una pizza, adesso mi frutto. Bene, dai, divertite, però ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao, Antonio. Sì, ah, ciao, grazie. Sentiamo quando rientrate. Vabbè, vado a fare compagnia a Gianni. Ciao, ciao. D'accordo, d'accordo. Casino, è un casino. Deve pigliare un bicchierino della mazzotti quando c'è cinta di stomaco. Noi facciamo così. Perché a volte c'è persone che andava a bere la birra, no, era ghiacciata per dire, arrivavi a casa, mangiavi e ti veniva la cinta di stomaco. Allora andavo, pigliavo la mazzotti, scendeva, sembrava che ci che fosse medicina, va, che dopo che hai fatto l'ultimo, boh, guarda, c'è il stomaco, va tranquillo. Non mi dottore che facevi da voi. Come gusto, se ho discuto lo fa, come passa da se mi è rivenuto. Vabbè. Allora, vedi, mola. Sono a fare come ti ho detto io, se no boh, un po' di tumore, insomma, ti mangio un tumore, però va bene così. Sentiamo dopo un po' ci sei là. Poi c'ho anche il sonno, vabbè, perché mi hanno buttato tutto il coso all'entrata di casa perché stava crollando. Ma è arrivato la moto a beffa, i gabbi di gas di muratori. Un talone ci devi mettere, almeno un talone di plastica, non ce l'hai. Non ce l'hai. Mettici un talone di plastica, se non ci metti il booster, se no ti fanno una roba a beffa che fa. Ma se non cazzo, allora sapete che loro sono pagati dal comune, non in una futinuta, la cosa delle altre. Ci sentiamo dopo. D'accordo, no, dopo so. Sul 10 lo so, quello è il problema, stavo spiegando poco fa l'amico Antonio, c'è moltissimo. facevo QRM io qui sotto, non ho centralina collegata, altrimenti qui avrei spaccato in due lettere, purtroppo non posso. Per ora vi dovete accontentare di questa portantina. Vai da... Sale, c'è Antonio e io, in due, avanti ancora per te. Antonio, intendi questo? No, non lo intendo, è te. Sì, non dico che no, chi sei l'amico? Che dai, non c'è problema, tranquillo al mille per mille. E da me? Tu. Chi è l'amico? Non lo so. Non si capisce bene, no, qual è me c'anto, capito? Cappa. Ma conviene andare in banda, boh? E vai in banda, vai, in USB. Eia, ho detto non pago. Però vai sul 20, Anto, vai sul 20. Eia. Vai io. Otto volte sul luglio. Ripopoliamo la frequenza, ma la frequenza, fate un punto di vergogna. Che succede, Falke? Fate un punto di vergogna, ripopoliamo la frequenza. Ma non da parte mia la vergogna, chiedilo agli altri, non chiederlo a me. No, e mica sono riferito a te, che riferito a tutta la frequenza. Ripopoliamo, ma che ripopoli? Cazzo, mi sono gli altri, cazzo, è un cagnolino. Cappa, se lo sono tutti loro. Ehi, no, beso. Hai ragione, ma se lo sono tutti essi. Ui, basta, sguardo di lusso, basta. Tu io, vedi questa cosa, non è che sono molto contento. Anto! E avanti! Tornato Giove! Ha tornato in noia! Ti stavo chiamando e non mi hai inteso! Mica il beppe pacchetto! Non si dice pacchetto, si dice tribriu rispetto alla lingua sarda, che siamo passati lingua, compreso. Comunque hai ragione Anto, ecco, quella lì è la lista giusta, capito? Ma ce l'avrei voglio dell'87, solo che l'ho persa, forse non è mal service, capito? E già è così, bandati 27, e già è Gaia Antuia, già sa Leone, no problem, ma per l'incantamento di questa porcheria di internet. Cappa, se ho ragione, ho ragione, c'è poco da fare. Che partito è vero? Ah, ti fa che? No, sta parlando di libri, di libri. Non è scusa il telefono. Vabbè, dai, prendete voce, sentiamo dopo i libri. Eia, andando e tenete. Antu, chiamo se tenete da voi. Eia. Eia, lo, ebbe, ho trovato, signor. Non vogliono lavorare certe ore dove picchia il sole forte. Vero, eh? Eh sì, è come quando piove o quando fa molto sole. La stessa identica cosa, quando piove non devi lavorare, quando fa molto caldo, per legge, per il tabulato che ho letto, e ci hanno fatto fermare, se il sole picchio 42-43 gradi, devi andare a casa. Caffa, perché dice che se succede che, ma io l'ho sentito, malaguratamente qualcuno ti prende l'insolazione, so che cazzo la vita passa un casino. Eh sì, sono cazzi acidi per il datore di lavoro e per chi ti ha obbligato per dire a lavorare nelle giornate caldissime, capito? Sì, è tutto vero, non ci sono cose di né per sentito dire né per niente, è così. Purtroppo funziona così. Se la temperatura è quella, a parte che non puoi lavorare, poi c'è il rischio di insolazione e se l'operaio si prende l'insolazione, la responsabilità è del datore di lavoro. Punto e basta, lui deve dire no, non si può lavorare a queste temperature perché lo sanno bene e più di noi, deve andare a casa. È la stessa cosa quando piove, cioè non cambia niente, o pioggia o molto sole, deve andare a casa. E con la giornata pagata, attenzione. No, parlate, è tutto vero quello che ho sentito. Perché infatti lo stavano dicendo che è proprio così, non sono cazzi amari, dice, se si prende l'insolazione è guai. Comunque l'insolazione è brutta perché rovina la persona, non può più lavorare, succede un casino. Beh, l'insolazione è come che tutti prendono un esaurimento, la stessa identica cosa. La responsabilità è tutto cade sul tuo datore di lavoro, paga le spese, paga le visite, paga tutto quello che uno fa quando si prende l'insolazione, tutto lì. Così che non penso che convenga al datore di lavoro mettere un operaio lì a Ciassoli o Turino, no? Non penso proprio che convenga a lui, dai. Caffa. E beh, per un bel po' di tempo la persona la guasta, me. C'è stata gente che è stata un bel male. E per mesi, dice che ti lascia il segno questa insolazione. Dice che per un bel po' di tempo non puoi lavorare, e poi dopo c'ha le conseguenze, devi stare molto attento. Non è, la persona dice che non è più come prima. No, non è mai più come prima, per il semplice motivo che l'insolazione prende il cervello. Il cervello è fatto d'acqua, che sappia io. Nel senso che una volta che ci puoi in testa, poi diventi una persona anormale, non normale, capito? Anormale. E beh, è giusto che l'insolazione è una cosa brutta, perché per evitare eventuali sanzioni da parte di gente competente e si prende e si dice all'operaio, guarda, c'è troppo caldo, vai a casa, tutto lì, se vuoi evitare complicazioni. Se poi si vuole complicare la vita, ben venga, a me non è che mi interessi più di tanto, mi cura a terra, mi traia per volte, dico, male mi sento, insolazione, via, a casa, pensionato. Caffa. Roba male, c'è gente che è finita all'ospedale, cazzo, c'è stato anche un bel po' di tempo, uiuia, poveracci, cazzo. Quando è così, non li conviene, no, perché poi passa guai, cazzo, il datore di lavoro passa un sacco di casine, no, conviene dire di no e basta. Ma loro sono su certe cose, loro sanno bene, più bene di lui, capisci? E vedo loro cosa vogliono fare, capito? A parte che sono io di persona, in prima persona, gli dico, beh, li avremmo là in culo, che io me sto andando, hai capisci? Certamente sì. Avanti, Luca Pagava! Che fai apposta, dai. C'è posto per tutti, c'è posto per tutti. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, Gappe. Antonio Bombolino, ascolti Luca qui, Gappe. La Luca, buonasera. Gappe, no, adesso non l'attacco. Ma vado normale, vado. E fai bene, bravo, tu. Lascia andare normale. Oh Luca, vino di notte. Ma sta uscendo, ascolta zio tu, che fine ha fatto Savi? Va bene. Com'è tutto questo? La radio è attenzione, non è che ti sto dicendo una scena brutta, Ma com'è questa passione lega? Tutto interrogativo. Così. Perché tu me la passi di passare pure in culo, io ci ho passato una lecca. C'ho anche la M300, c'ho il Kenwood, c'ho il Typhoon. Così. Poi quando mi si girano le coglioni, poi mi prendo tutto. Esagerando già tutto subito, tu con le parole leggere, c'è quello che c'ha il gusto così, e se a me piace pigliare il culo, cioè se a me, attenzione, se a lui piace pigliare il culo, se mi piace, ti piace, no? Se a me piace, io come voglio malacchina, se mi piace pigliare il culo, ognuno ha i suoi gusti, no, cosa ne dici? Forse è meglio che il gusto del malacchino, che pigliare il culo a voi si piace, è brutto, infatti, a me non piace pigliare il culo, e mi piace pigliare con l'acchio di culo, ecco, Gappe! A te la tua già ti piace? Con i malacchini? Pesce Luca, è sempre quel figliato. Lei si è rialzato e mi ha ricordato un caffè a me. No, Antonio Bobo su tu mandetti. A te già ti piace a te? Faccio. Vedi, Si dice così, però si dice che ancora siamo in fase protetta, già lo sai. Si dice la cosa. Avvocato, ma è truba giorno, non è truba ciotto. No, dai, non vediamo fiaschi per fischi, dai. No, voletta giusta, voletta. La detta giusta, Luca, anche tu, A me non mi piace né un mangaglione da un culo, mi piace solo lui, a me. Cosa devo ascoltare, guarda che sono i punti che stanno ascoltando, fate i bravi se potete. Cappa, dai, adesso non pensate, basta così, basta con le parolacce. Siamo in fascia protetta. Esatto, dopo la mezzanotte uno può scherziare quanto vuole. Cappa, dai, no, hai ragione, dai, non diciamo parolacce. E allora non viene, tramaglieteci. No. Mi sbanca la fa questo cazzo di cosa, no? Nulla, niente da fare. Nine, tu? Ma io, grazie a Dio, ti ho ripreso 2 settimane fa e tutto ok per il momento, poi vediamo, perché ci avremo sia un altro mesetto, ma non di più, Marco? No, negativo, solo. Vabbè, buono così. Ah, fare i cazzi tuoi? No, Marco, stanno facendo un lavoro suo privato, lo sta terminando, tutto lì, capisci? Ciao Robby, Gloria, casino, Robby Indala, mi sono preso una miseria di cassaire, ma c'è un miliardo di dinami bastanti, ma se sono fan di dinaia, ma ci sono ammazzati da tassi. Non lo sai così, Luca. Vale, tu considera che basta leggere la busta paga, sono più tasse che quello che devono dare a te, capito, l'operaio. Cioè, sono massa miserabile, nel vero senso della parola. Avete sentito l'ultima? No, dimmi, a tu. Praticamente. se spendi più di 3.000 euro per farti le vacanze, cazzo, si può andare a tazza. Ah, è vero, hai ragione. Cioè, infatti che uno può spendere quello che va, che, beh, Monti ha fatto le cose per bene, sta facendo le cose per bene, con Berlusconi. La matta che voleva avere altre due. Cosa per bene? Ecco Rubè che mi ha tirato a palla, Rubè che mi... Per bene. Cioè, ma ti pare un cittadino, magari, che lavora tutto l'anno, non ha vizi di niente, no, non fa nessun vizio, ci mette i soldi a parte per magari per farci le vacanze come cristiani, come si tocca, e non posso prendere quello che mi pare mi piace. Ma io, ma mica una cosa assurda a me. Cazzo, mi devo punire, allora cazzo devo vivere come pellegrini, devo vivere per ottenere tutto. Ma c'è Carlai. Positivo, questo è Monti, e te ne dico un'altra, se nel caso si arrivasse alla pensione non puoi prendere più di 1.000 euro, capisci a me? È proprio come l'elemosina, cioè cazzo, uno che ha lavorato, ha sacrificato tutta quanta la vita, se prende il culo dalla mattina alla sera, cioè non può prendere una pensione oltre 1.000 euro, ma stai scherzando? Cioè proprio sono pezzenti, ma pezzenti veramente. Allora la loro pensione com'è? Cazzo, non voglio aggiungere altro perché mi fanno veramente schifo. Esatto, hai detto proprio la parola giusta, avanti che vuole entrare, proprio fanno pena e schifo, avanti che vuole entrare senza mettere portante perché non sta bene, dai. Con la buonasera, in compagnia di Antonio Bombolo, il sottoscritto e Lugariello, avanti che vuole entrare. E questa non è gana. No, proprio non è gana. E allora Lugariello si è fermo, dai. Tu già non vedi, guarda, l'ufficio collocamento è una cosa assurda, a me mi fanno le lacrime, le mie voci per basso mi fanno le lacrime, centinaia e centinaia di persone fuori, aspettando che, ma lasciamo perdere. Cosa vuoi fare? Purtroppo è così. Capita che, dico, capita magari che ti chiamano, io due volte ho tentato, due volte mi hanno chiamato. Sì, sono pienamente d'accordo, sono felice quando ti chiamano o quando ci chiamano, ma non puoi fare una domanda ultimamente come c'è stata per determinate persone, 3-4 muratori e via dicendo, e vanno a entrare le persone che Dio me ne scappi e poi liberi, vabbè, anche io non ho bisogno. Io sono per la pace, non sono nazista. Dio me ne scappi e gamberi. Bravo. Vabbè, se vuoi va. Purtroppo molte volte capita che prendono le persone sbagliate. Più di una volta. Io qua, io là. Vabbè, va, mi dimentichiamo molto, va. Infatti. Il povero mondo, chissà come andremo a finire. Non si sa. Vai, Antonio. Cappa, purtroppo ci sono mille problemi. E più sta passando, più stanno passando i periodi e più sta andando male la situazione, ma veramente male. Non c'è più lavoro, non c'è più nessuno che paga perché non ci sono soldi di niente. Non c'è più niente, non c'è rimasto più niente, guarda. Se non ci danno una svolta qua succede un casino nero. Succede che comincia già a... cioè... comincia già a fare le lotte, comincia già a fascia tutto, a fa casino i cittadini. Cioè cominciamo come gli anni 70, che facevano le guerriglie per avere i diritti. Adesso bisogna fare le guerriglie per avere i diritti del lavoro, cioè per averci il lavoro, perché il lavoro non ce n'è. A quei tempi ce n'era e c'era un'altra cosa. Rompevano anche un po' troppo le palle, ci attaccavano a cose che non, che non esistevano anche, dai, era un po' troppo esagerato. Adesso bisogna fare guerriglia per ottenere lavoro perché non c'è più niente. E si conferma, purtroppo così, noi andremo a finire, io mi auguro che non andremo a finire come la Grecia, come tra poco la Spagna e via dicendo, però siamo lì, attenzione, perché siamo allo sfascio. Sì, mi sa che ci siamo quasi. Se continua con questo miserabile, che più miserabile non si può, lui e tutti quanti i suoi seguaci, se continuiamo così succede un casino nero, guarda, non c'è più nulla, proprio di niente. Infatti, per carità, guarda, mi assento 10 minuti che ho fame, sete, sonno, no, se mi arrivo subito, devo fare una cosettina urgente dopo. Va bene, Margherita, fai una cosa urgente, non ti preoccupare, ci sarà per me. Avanti a tutti. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo. Non c'è proprio più niente. Purtroppo è così, anche la stessa ditta, l'imprenditore sono in difficoltà perché lo stesso Stato non paga, non paga più nessuno, non ci sono finanziamenti, non c'è più nulla di niente. No. Facciamo tutti in amore. Ciao, me l'ha ascoltata. No, il discorso è che purtroppo stiamo arrivando a un punto che a me non ci pare pare, perché non si può andare avanti il discorso che le banche non finanziano le ditte come fanno a prendere gli operai. E tu questo testa ragnello di Monti, tutto tranquillo, sereno, tu io qui, io là, ma si è messo l'Italia a fame, cazzo, ma ci rendiamo conto che ha messo l'Italia a fame, il subito di bidare, vabbè, dai, puntini, dai. Ciao, buon pugno, ben ascoltate, buonasera, avanti. Buonasera, devo fare l'amore, non a Monti, capito? L'amore, so che c'è l'amore e basta, grazie, sì. Ehi, mica c'è piatto il mio uomo, avanti. Così è. Adesso non so se hai sentito quel discorso, che anche le ditte, cazzo, per fare le concessioni di ditte, per poter costruire, per poter fare il lavoro in appalto e tutto quanto, sono in difficoltà perché ci sono 1000 cavilli. Alla fine ci stanno anche rinunciando, cioè non fanno più danno niente. Non so se hai sentito quel discorso là. Cioè c'è gente che è disperata, no? Imprenditori, impresari, cazzo, non riescono a ottenere niente. Molto, perché in effetti anche loro non si fidano più di prendere nessuno, perché sono tasse e basta. Poi chiedono magari un agevolamento alla regione e dei pigiami dalle cudo, tutto lì, dai, non è un discorso che non attacca né a né a muro. È ovvio che tu, un imprenditore, dice manca a me lo fate, va, aprimo una ditta, e per che cosa? Vado a mangiare che 4 buffini che mi sono chiusi nella gamba, che mi sono centinaia, che avevo avuto, lasciamo perdere, va. Il problema più grosso anche. Che stanno facendo? Li stanno mettendo in difficoltà, cazzo, non gli danno le concessioni edilizie, cazzo, non li fanno lavorare proprio, è un casino per ottenere questo cazzo di concessione edilizia. Sì, proprio vero, proprio vero. Vai, facciamo l'amore. Allora, lo stai facendo di bello, Antonio, anche lo stai combinando. Io sono di Giavenni, tribulenti, a roccia sole, di bombe, anche da i ministri, ma la carità è guarda. E' meglio che stai lavorando, almeno sei più tranquillo. Senza lavoro un casino, non dico a me. Devi andare a chiedere come faccio io, soldi al coso, al comune, eccetera, eccetera, devo migliaio, che prima fanno passare agli altri, poi fanno passare a noi. Capito? Sì, sì, Antonio, purtroppo stiamo, guarda, passando un periodo, guarda, io da molte rimango adibito perché non può un padre di famiglia lì stare a aspettare queste quattro limusine di questi pezzi di biglia per in giro lì, venuti a fare un'interrogazione del terzo grado, ma sembra profumenti. Noi dobbiamo solo pensare una cosa, come vi ho detto, va bene, avere i cosiddetti bottoni sotto le palle, girarsi tutta la popolazione, vedrai che anche loro si calmano e scendono, infatti diciamo noi, punto e basta. Sì, meno male che i poveri si hanno diventato tutti lo stipendio, sono stati tutti bravi da militare. Sarebbe fatto lo stipendio di tutti, invece con l'Italia lo stipendio non si hanno diventato un accidente, si hanno preso solo il punto e basta, prima si hanno aumentato, poi si hanno aumentato, poi si hanno andato a fare la pena, e quindi sono... Ma se prima è sempre uguale, sarebbe a rubare un muro. Capito? Il discorso è quello lì, avanti bombola. Molto. Sono abbigliato un faro guru, sono abbigliato. Che se ne trattenere poco, ma la soce dalla busta paga, che non rubeco che andrà a barito. Cioè, è sempre la stessa cosa, Cazzo, ma... è un casino, guarda. Cazzo, ci sono persone che stanno andando a lavorare, cazzo, per 400 euro, ma si può. Sì, 400. 300 vuol dire. Io trovo 3 ore alla 3 volte a settimana, 300 euro, se il tempo è assicurato. Se mi faceva male il materiale per dire un piede o una cosa del genere, non mi pagano, hai capito? È un casino, eh. Un macello, non si può andare avanti così, cazzo, non si può. Ma gente che sta lavorando, quei ragazzini sono figli di paruguro, ma te se, quei giovincelli che li mettono a lavorare a 300 euro, li mettono a lavorare dentro il supermercato, cioè... sono cose inaudite, sono veramente. Cazzo, molti ci fanno perché se non c'è quello non c'è niente. Soprattutto questi ragazzini, cioè se non c'è quello no, non hanno altro niente. Cioè, è proprio una abbigliata a baro puro, Certo, assumono quando hanno 19 anni, fanno da 19 a 34. Dopo 34 anni, ricordo il muro. Il discorso è quello lì. Quella lì non mi ha fatto facendo una carta domanda per entrare con la carta negozio, hai capito? L'unica cosa che prendo è la qualifica, nonostante i soldi che prendo dalla regione, capito? Come fa cosa? La Covet, la Sisa in pratica, li assume tutti così, con tutto un ottimo lavoro, per 2-3 anni. Una volta finito un coso, ne assume altri 20 o 40. Quindi se dovete 40, ne assume altri 40 ancora, e quindi lui si becca soldi della regione, ci mette pochi soldi in realtà. Ma non fa bene, non ti preoccupare. Ah, cazzo. Le fanno un contratto normalmente, ovviamente, cazzo, che uno deve... Prima li assumono per fare poche ore, da cui una volta che sono in Chivetrento, già lo sai com'è la situazione. Non è possibile farsi pigliare a fare il culo così. No, e purtroppo devi andarci a farlo, però si sta veramente pisciando fuori dal vaso. Anche per tutte le conseguenze che ci stanno... accadendo, cosa, stipendi del cavolo proprio, quello, quell'altro, è un casino, gente che non lavora, non c'è lavoro di nulla, e chi non paga, né niente, che dato, si sta formando tutto un gruppo che secondo me si inferocisce forte. Vabbè, pensa a Giulietto, sei incazzato. Ehi, quello giù dietro. Hai mangiato la pappa? Ho incazzato anche lui, ha detto, ci sono sicuramente forse le cose guai. Se lui è subito trovato un giorno. Sempre la sottoterra, ma è diverso il CPL. quello che trovano così è gas naturale, che è un'altra cosa. Ma che dicevano che mi conosce, lo voglio mostrare la cosa, lo vuoi fare, ma i malati lo vogliono estrarre, solo che non so se lo fanno fare, tanto che vogliono fare, mandare questo mezzo d'Algeria in Italia, adesso lo vogliono più fare, quindi magari che è sentato la lo faranno da qua. E lo guarderanno su, adesso vediamo cosa vorranno fare. Manca la linea, compreso, quindi se prima l'altro c'è se un giro di sodura maggiore già lo fanno, se tu compare. Numero 13. Adesso vediamo, ancora è un progetto che non bisogna di là per fare nulla, immaginiamoci. È un progetto accantonato quello lì, perché non ci sono proprio soldi, già lo sai com'era. Siamo in un periodo di crisi. Siamo in un periodo di crisi critica. Non immaginare un casino che fa. Ma però c'è il bombolone, c'hai poco. Via, c'è il bombolone. Tutti pagati una quota. Tutti pagano una quota. E c'è un bel che mi farà avanti. Che è avanti che devo entrare? Avanti il break. La pagazione era qualche cagnolo senz'altro. Regolarmente, stavo dicendo, quanto paghi tu? Io pago 20 euro di gas. 20 euro? Via. D'inverno? Questa cosa, perché lo uso solo per cucinare. Zia. Allora? Io non ho pizzeria allora. Giallo credo, giallo. Sì, euro ogni quanto, ogni due mesi, ogni mese. Non si mettono ogni due mesi, la verità. Adesso non me la metto più. Perché non è che ce la faccio ogni mese a fare la lettura del gas, capito? Che fa una beceria. Noti che stai strappando, faccio un pochettino. Già può essere, aspetta un attimino. Allora, adesso sono abbastanza più di fatto, perché è un po' troppo acceso. Adesso va bene. Non ti dire che quando esci la mattina ci riesci di mattina, se fai mattina te lo spegni a mezzanotte. persona. Grazie. l'oggetto con la moto proprio sopra la cappotta, e dove la chiesa? Non lo ricordo adesso. Ma dove è? La mia gioventù. Ah, e lo bravo siamo dello stesso. Dove c'è entrato è il mio bambino. Ma intanto non vedo di sfuggita. A chi? A Lando? No, no, c'è lontano, c'è lontano. Ma dove è Casazza? Domani, no, libera uscita, è casa della cosa Casazza. E ce la da un anno così. Ma tu pensa che io devo andare, il mio compare, quindi, il mio compare, insomma, compare così di bifimia. E tu pensa che io devo andare al suo matrimonio? Non credo, però magari se sei andato in conflitto con altri ragazzi, in quel periodo lì c'era la fila delle auto CD che andavano a cercare donne, non ti credo che era pieno, anche gente grande sposata andava a conoscere le ragazze che andavano a baracchino. C'era anche le gelosie, c'era, no? Quelle sempre. Tutti i tecnici erano, tutti andavano a preparare, la piazza di lanterna, ti viene il baracchino, ti viene il fattore, ti sempre quelle che erano, tutti i tecnici erano. Tutti i tecnici, magari non ne comprendia un'acca. Poi quello si gli ha capito a me una volta. Quando poi ero su 14 abbiamo conosciuto, è apparentata la tua ragazza. E da questo è cominciato a parlarci tutti i giorni, quando tra voi si incazzava. Quando tra voi si incazzava, no, gli ho detto, ma te la butto. Sono basato. Ho preso. Non ha detto a Pippo Capacino. Che un Pippo accompagna la casa sua, la voglio conoscere e so, mi sono rotto le balle di questo vento. Quindi l'ho attaccato nel canale, dato sembra che gli sta toccando la pensione. Ho preso, l'ho conosciuta, il tempo di lui si è divertita, non faccio parlare più con lui. Vabbè, è fatto lui a fare una cosa del genere. O fare un carattere che faccio io. Non mi incazza assai, però ti ascolto a vedere i movimenti che stai facendo, ma poi voglio sapere un di cavolo andi, ma poi quando gioco dove sono, dove frequenti, vengo a casa, vengo un dicendo, io ti ho colpato a pugni a faccia, ma poi figlio mi è nato, sono fatto così io me, quando mi incazzo. Io in quel periodo lì era così, ci sono state ragazze un bel, c'erano ragazze che erano una bella voce, la verità, e faceva piacere parlarci, fino alle 3-4 del mattino, io ero arrivato a 15 anni, non c'ero, prima di solito ero arrivato alle 9:10, mi avevo con il cavallo del Pontianuta, ma più di una volta sono cominciato a metà le 4-5 del mattino, comunque te la accorgevi, passava loro la musica, mangiava il coppiato vicino al baracchino, vicino al microfono, una cosa assurda era. Adesso ma se mi pare che sono vicino al coppiato vicino al microfono. Caffa. Ma che ti bel potente così, oi. Poi molta gente si metteva a sfidare, la gente, io ho sentito qualche bisticcio, anche se ero piccolo e cosa, quando accendevo il baracchino, l'ho sentito qualche bisticcio in frequenza, ma gente sfidandosi, gente che poi ho conosciuto e cosa, che non aveva neanche titolo di sfidare nessuno. Ho conosciuto parecchio, sì. Dalla voce sembrava chissà che cosa, ma veniva a ragazzini più che altro, non dai bagni, lui sono scappata parecchie volte di quelli due piccoli andiamo maricone, andava proprio a pazzo. Andava a cercare, dove ti trovava ti metteva le mani addosso, era fatto così. Fino alla volta l'ho fermato io. E tu lascia poi la mia casa che tutti i permessi di mare detto perché ha fatto la gente, ma quello mi ha detto che sono così. Ho fatto la frutta in bivio. Ma se le papà le basta, sono ragazzini, cosa non va? Scappa. C'era gente che ti prendeva anche le buone, traditori. Ti prendeva le buone per farti sapere chi eri, chi non eri. Dopo che ti acciappava ti pudiamo la giusta che manco quattro accusate. Di quello mi sono mai capitato a me, diamo le buone. Io quando ho conosciuto qualcuno, sempre conosciuto per quello che era. Se poi abbiamo avuto dei problemi, sono andato e sono sempre risulti. Abbiamo sempre parlato. Non sono mai arrivato a prendere il coppio o cosa del genere, la fortuna. Non mi facevo rispettare, quello sì. su 14 che entrava lì, si stava bene, si divertiva, quello che si scalzava, però mai siamo arrivati a livello di andare a ammazzarsi uno con l'altro. Sulle due verticali, quando però parlavo, gli lasciavano una faccia, ma la piavano tutti, il proprio sono quelli da 11 e si ritiene. Perché io ho saltato parecchi quando c'erano le 3500 euro, l'ultimo dei tre, l'unico palatino non piava ancora per le attese, adesso abbiamo comprato uno, tanto per poter comprare. Perché l'avevo venduto perché li cattava il contatore del canale. Avevo venduto 20.000 lire, mi davano il mio. La quando mi sono preso poi il 2009, e questa famiglia qui non ho sentito più manco una splattera, nessuno. Peccato. No, stavo dicendo che quando molta gente si sentivano questi prepotenti, non c'è tra persone tranquille come possiamo essere noi e cosa, perché o ci pestano i piedi non ci cazziamo. Quando ti diamo chi si prepotente, io ti porto bomba. Un po' di gente che sta gettando al barco e ti fudiamo la succia. Che se, bomba, fatto molto vedere le cose, non ci siamo mai chi troppi dietro il microfono. Ma c'è più chi sono più mancanti di te, che magari ti aspetta e cosa, e dici, ah, in tal luogo ande. Magari ti ha già notato, ti ha già visto in tal luogo. Cosa ne sai qui? E cosa li salta qualsiasi cristiano? Cazzo, piglia una sfraga di vero, ti raccoglie a barre. Dove sento? Sempre rompi le fiatole. Non si sa mai chi trovi, molta gente sfida. Ah, quello sì. Quando fate non sai mai con chi stai parlando, mentre quando gli è vero. Allora, di solito quando non ha fatto bene con l'altro, ci si conosce e poi è sempre finta, quando meno mi vanno a andare bene. Per come lo dico io, poche volte mi fa parlare tu di la verità, poche volte. Schiappa. Parola sante, tu sì che mi cambi il nemo. Prossimo. Antica. Non sanno mai, non sai mai chi trovi. A tappo lo trovi chi su che non è la puttinuta, che è scelerato di capo. All'ultimo punto. Ma magari ti già un mezzo ti conosce, chi sei. Perché magari ti cosa che ha preso, ti ha ascoltato e tutto. A mezzo compreso che ha la tasua che c'è, un'età che ha pagato da senza. E così. Non è come pensi tu. È sempre capitato tu, non però da poco fa. Quando si è vestigiato la baracchino, ti faccio il culo, ti faccio di giù, c'è di qua, per andare a vedere la persona a casa, gli vado tutti i mobili. E andava la barra, non mai arrivati alle poche volte, come sto dicendo, poche volte sono arrivati alle mani. Massimo, massimo due o tre volte, non detto come l'ho visto io, da sotto quattro adesso. Poi, se vedi magari uno che scema questo pure mancante, che va subito alle mani, e quando lo trovi anche in strada, che c'entra? Quando tu passi molto calzo, c'è un coglione, ti ha visto se dormi la macchina, io ti metti una porta di un piletto che ti ricordi a fare disegnata. Quante volte ormai in tutti i posti per delle persone così. Quando noi c'è che ti cercano, e tu neanche conosci per dire. Vabbè, è capitato parecchie volte questo fatto qua. Se uno c'ha qualche cosa a qualcuno prima si discute, poi se vede una cosa che continua, allora sì che vale male per forza. Ma così su dei piedi, di solito quando vai a conoscerlo non è che se vai subito a picchiarlo. Cappa, così è Ale, non ho proprio mai persona che poi si facendo un cammino, ha già un mancante e si è buttito. E ce lo devo fare l'amore come chi è? Questo mi serve dal video. Ciucu. Non è lui. questo ciuccio. E che ha detto che balla questo che fa ciuccio? E perché gli piace fare l'amore? Ma come adesso? Ma mi piace, come ha fatto questo mignolino, cazzo. Era trovata dalla sbarca, ciuccio, in macchina, proprio con la mollata. E la sua affondata col calicio. Adesso ci vuole andare a fare la notizia, andiamo prima del progetto, andiamo a guerra, ma ci becchiamo di che troviamo. Abbiamo messo io. No, ma la gente qua, sai, buonasera, sono rientrato dalle mie commissioni, porca miseria, bisogna stare sempre uno più vicino alla merce. Però che bisogna fare così? Ma visto? Dove hanno fatto fare internet, ci hanno l'appuntamento a fare. Se il problema è del cudemolo. Lui è tutto togliaio, ma non ha capito che si sta diventando tutto togliaio questo internet. Lui, io ce n'è, meglio vedere quello che vedere altro. Ah, quello senza ogni dubbio a tuo, non sei ben riascoltato. E purtroppo è tutto, tutto un ciucco di te, Antonello. Vedi, Antonello. Meglio vedere quella, la bella raga. Vedi, piuttosto che vedere chi si pervertite. Ma il bello è questo, tu, che purtroppo se da voi li piatti, non lo so come va a finire poi. Già è meglio la cozza, già lasciamo perdere quella che sia tutta pelosa. Pure se non è pelosa è sempre meglio di vedere che sei, che si capi di giuffa ciuffa. Ciao, come stai? Vai, poi come ti sei a moglie, vai. Caro Monte, dico io. Già ti faccio parlare con Cicchi Paolo, è così. Ti assenta, abito come si difende lui. Ti fai che hai già capata. Cicchi Paolo. Sono delle persone da rispettare, mi attorno. Purtroppo ognuno ci ha sui vizi. Forchetto. Forchetto. Ehi, a sorridua, calzone. Ma lo capisci, Sardo, a sorridua mi, o mica mia mamma tua. Ha, ha, ha. positivo. Sto cercando anche stasera tramite Lucariello, ma Lucariello già lo si è sempre impegnato con le sue cose. Va bene, e già ci sentiamo, sai, non c'è problema. Va bene. luci lucide, altro che bene bene, ui ui. Adesso ho detto di Dio, se me la colgo subito quando mi è processuale, cosa vuol dire, me la colgo subito. La copertata è anche dal collo, perché c'è la, quella palla che esce fuori, come si chiama, che ci abbiamo due uomini, che non mi ricordo adesso. L'osso, come cazzo si chiama? Qua nella gola si vede. La trachea. E c'è un altro nome, quello so. Abbiamo un nome dove si chiama. Giappa. Sono usati, ma da... Si vede dalla diciamo dal collo, ecco, dall'osso che abbiamo noi quando parliamo. Capito? Trachea. Sì, ma c'è un nome quell'osso, che non mi ricordo come diavolo si chiama, c'è un nome, invece a noi non ce l'hanno, qualcosa lì, c'hanno solo per i uomini, capito? L'acqua la te la cocci. Questo buco si chiama quello. Che è quello c'è? C'è l'inculo. Se vai chiamare, si chiama il cieco, però. Sto chiudendo! Ho acceso per sentire. Guarda di lui. Rimani a contatto, mi ha fatto bisogno come si può che sono per fuori, malgrado. Grazie a me, ciao a tutti. Ho acceso fuori tutto, ma chi è? Ehi, mi stavo ascoltando. Sì. Ok, sono stanco, ma non so. Dove sei, amore? Aspetta un attimo, quella, faccio entrare che mi sta chiamando la porta. Un attimino, sta arrivando. Non mi dico che sei andato a fare i filocchi, non li cambierò, non li fatto da fare. Ah, e mi sento di dire che non vado ai ragazzi. Come parlava, e mi diceva che erano tutti, cioè, come tutto che è tutto filocchi, cioè. Non c'erano più di 20.000, c'erano lì, quanto? Figurati. Stavo facendo entrare la gatta. Capito? Stavo facendo entrare la gatta. E chi ride, gatto? La gattina. C'era, stavo vedendo di te. Dilli miau. No, sto scherzando, ho capito, sto facendo la gattina. Entra la gattina, però... tutto un discorso particolare, dici dove abbattere la gattina, troppo dopo, troppo troppo alto. Cioè, no, purtroppo ci sono questi personaggi, è una malattia, dai, cosa vuoi fare? Ma secondo me... Atto. Cazzo, che li piace... Che li piace faceva, non di dietro. Tu cazzo ho preso da, tu cazzo ho preso da. Tu cazzo, cioè, ma addirittura molti li piatti. Molti in lande. Quando tu pensi che se non ti fosse stato frusciolo, non c'era stato bisogno di fare manco lo stipendio, perché avrebbe cantato il finocchio. Ai, bella, bella, vabbè, matta di vai. Ti leggi a Nicicco. Aspetta, chi è che mi chiama avanti? Avanti come c'è l'altro. Mamma mia, che ridicoli, cazzo. E dimmi dinamite. Con pietra. No, ragazzi, non c'è Claudio. Comunque se voi c'è Antonio Falchetto, Antonio Tombolo e io. E Rosso. E io tu e Rosso. E io, dirami, non capito. Ma tu sei fondito? Stai parlando di qualcosa con lo... Dove l'avevi chiamato, aspetta. Santiago 7, mi pare. Giusto, se Dio ci ha fatto così, dobbiamo essere così. si può già dire Dio ci ha dato le cosiddette cose, noi ci si per vedere, cioè si cambia la sponda e tutto a solo che capita, è tutto lì. Scappa. Cioè, ma un camion non può diventare macchina, cazzo. Cioè, così è tra l'uomo e la donna. La donna è fatta per fare, per amarsi e per fare una famiglia. Cazzo, che ci cosa hai fatto? Fa pigliare il culo. Purtroppo, cioè noi parliamo al di fuori dei loro pensieri, però purtroppo ci sono, esistono lesbiche, esistono transessuali, esistono bisessuali, e chi più ne ha più ne metta, e chi ci può fare tu? Tutto il mondo è paese, dai. Scappa. A me mi pare una cosa strana, mi pare. Hanno dei pensamenti strani, hanno questi qua. A me, cioè, che si bucarino mi piace. A me io sono un uomo e mi devo mettere con una donna. Non con un pederasta e due deghisso, fiaco di culo. Vecchia allumato si vecchia. Vai Antone, dina tu Antone, aiuto, serio però. Antone. Antone non si capisce male. E sicuramente. Ma io l'ho sempre pensato così. Ho sempre pensato. Loro facciano la loro vita da poco sani di mente, io faccio la mia vita che penso che sia sano di mente, e voi? Sì, ma è normale, tu. Adesso noi scherziamo, però non morisco. Loro hanno fatto la scelta di vita e ciccia. Ma non per questo non bisogna rispettarle, sono delle persone umane, come siamo umani noi che la pensiamo con l'altra maniera, capisci? Però giustamente bisogna rispettare anche il loro pensiero, il loro, insomma, va, tutto lì dato. Scappa, io spero che non domani, domani abbia una moglie. Sono in casa. Che mi prima di scendere. La vita come deve essere. Adesso ancora sono così, sono scappo, dai. Questo vediamo. Di trovare una brava ragazza, una brava donna, non di quelle. Come si può spiegare? Troia, va? No, guardate si chiama. No, chi ci non mi piace, io voglio una persona seria. Se no niente, se per fare lo scemo ci sono già. Vado con una, con l'altra e mi diverto così. Però io vorrei una persona seria. La gemella, va? Non voglio una persona che gli diano il titolo dietro. È bello, ma dentro la tua compagna e soprattutto sia una persona che capisca il tuo carattere, le tue cose, e cercare di andare avanti per tutta la tua vita, no? Come ci sono adesso, sposa la luce, domani sono divorziati e lui è tutto bagliaio, perché dai. Ciao, soprattutto che cioè, da fastidio quando gli danno un nome, cioè quando dicono soprattutto che c'è un grandissimo burrodone, cioè sono cose poco accettabili, invece cioè, dovresti essere una persona seria che fa nella tua vita, se poi succede qualche cosa pazienza, però se succedono quelle cose, purtroppo sono le cose più brutte che possono capitare. Così che io dico, vediamo un po' come è la situazione, perché bisogna conoscersi bene con una persona. Vabbè, soprattutto conoscersi bene, perché non è male la candela, il discorso che fischia con una donna che poi alla fin fine scopri che puntini, puntini, puntini e via dicendo. Beh, normale che sia così, no? Bisogna scoprirla bene, conoscere il personaggio e via dicendo, tutto lì. Perché se si arriva al matrimonio si arriva perché stai bene con la donna che sei e condividete i vostri valori sia suoi che tuoi e via dicendo, ecco, tutto lì. Cappa, ci vuole una persona seria nella vita. No, cioè ti buone lo dittono di buone. Purtroppo ci sono molte persone che lo sono e sono contenti anche. Beati loro. Che aspetti, beati loro veramente. Maestro, ti sei ripreso? Papà, le corna sono come le cambiare adesso, qui non ce li hanno, c'è niente. Così è. Allora, tu guarda Berlusconi, dopo che adesso le corna la moglie è andata a ballare, cioè, non la mia vita via. Ah, sì, tu ti corrodone, cazzo. Non c'è una cosa, ma quell'altra. Sposata con tre figli, la, come si dice, come si chiama quella parlamentare, adesso mi viene in mente il nome adesso, che gli ha messo la corna con un altro di lì stesso, figura di due, e l'avevo scritto in giornale, adesso mi viene in mente il nome, adesso, questa qui. Guarda. Oggigiorno tutti quanti cucci, tutti quanti corrodone, vero corrotto e contento, separazioni, casini, lotte, chi ne ha chi ne metta. Tu guarda, non sono i politici, sono così, anzi, peggio sono quelli che lavorano in televisione, che si fidanzano, dopo due o tre giorni sono già come un altro, capito? Quindi non te la pigli un impegno del genere, no? Per carità. Basta pensare a Balotelli, basta pensare a lui, capito? Non vuole riconoscere che ha messo incinta la sua ragazza, Balotelli, dai, io lasciamo perdere. Cappa, e se no credo che ci sono cogliolate. Capito, Antonio? Era un marito ed era con la sua migliore amica a Trento in bagno vende allenamento stanno a Udi e lei la vende il booting non mi ricordo dove è successo. Cazzo, che vergogna, cazzo, manco cogliovate, cazzo, dove era saccate. Ma io vi saluto, è troppo tardi, dai. Mi ha fatto piacere chiacchierare, passare una serata tranquilla. Ciao a tutti, ciao a te, Falchetto, a te, Pomponio, anche a te, Santi, buonanotte a tutti. E io, riprendo io, scusi, ma compito a salutarvi. Buon tutto, spazio del nuovo, buon trovato per domani e ci si ascolta anche io chiedo la trasmissione, ciao Antonio e tutta la mia, ciao Antonella Pomponio, ciao Marcia Sabiglio, ancora qualche tempo della trasmissione. Guardati da parte mia e tutta domani se coincide, ciao buonanotte a tutti, ciao. Spero che le tre ci beviamo una tazza di vino ora, spero assaggiamo questo vino, non bello. A te. Tu vivi, io mi ubriaco. La luce funziona, io vivo e tu ti ubriachi. Io già sapevo che ti funziona, ci siamo distanti, ma fossimo vicino, beh, avevo fatto a gara, ma purtroppo tu vivi, io mi ubriaco, sono contento lo stesso. Ciao, sapevo. Comunque quando vuoi ci sentiamo per organizzare. Ok, sapete. Positivo a capare oggi, dai, forte. Saluto Antonio e saluto 94, chiama per il pacchetto, stai attento perlomeno, non c'è per lungo il lume. Ciao, non ti preoccupare. Ciao Antonio, ciao Falchetto, ci sentiamo comunque tutti e due allora. E ci sentiamo domani. Salve, avevo voluto questo coso, questo computer. Non sono un po' al cellulare, ho un po' computer, massaggiando la K. Dovete andare subito a cercare un po' di pelo, cinese, non ce n'è un cinese. Qua? Pelo cinese, non ce n'è nel computer. Sì, ragazzi, cinese, non ce l'ho su Facebook. Non so, adesso io gli amici che ho su Facebook sono tutte ragazze che conosco di persona. Capito? Non do confidenza agli strani. Cavolo, ma dove sono? Dove sono? Tutte quante la rete che guarda la P. Quindi stai facendo la lenza plastica. Stiamo facendo una raccolta. Questo te li non play. Sto dividendo l'umido dal secco. Guardate. Dato l'umido dal secco. Quelle umide sono le migliori, perché così non ti si ingrippa. E già non bevi, Quando era c'è più quella cicogna a fare grazie nel birra della Osara. E magari ci metti un po' di vino in mezzo, così me lo sciacqui. Ma su cucina di con la polla di dolce d'arriva. No, già va bene, già. Io. Ecco la pizza, non te l'ho preoccupato, ma un moto lì. Come è la pizza? Non mi ha fatto ancora il motore, deve finirci. Non l'ho ancora messo a posto, gatto. Positivo. Sono tutti i giorni che non porto a trovare con la Geccio, già faccio con Giuseppe. Come? Uno di questi giorni è stato in foto con la Geggio, così te lo porta a provare, già passo con Giuseppe al limite. Ecco, ha portato l'altro giorno al bar, qua, al tabacchino, non te l'ha detto. Poi non è che ho provato tutti i giorni Giuseppe, c'è anche lui dove mi sono coveraccio. Invece di me. Già lo vedo fare, non spesso, ma già lo vedo. Sono in questi giorni già, mi. Domani metto lo strumentino nuovo, lo provo, cambio una valvola e poi se mi va bene te lo porto a farlo provare. È positivo, dai. A spingere un pochettino, che qua siamo un po' precari, sto scendo a livelli terra a terra. Io gli spingere, ho provato io a spingere bene. Anzi, pensavo di avere la verità, perché i condensatori su originali che mancavano sono tutti di quelli che ci ho messo. Pensavo che mi rimanevano i condensatori in mano, invece ho visto un bijou solo. Rappa, tutti un attimino, sto guardando qua. Non c'è nessuno al radio, solo noi siamo rimasti. Solo noi. Una volta c'erano dei ragazzi CB a quest'ora, se vi ricordi, parlavamo a voce bassa, facevamo l'amore al baracchino fino alle 5 del mattino, avevamo anche molto ci rimane detto così. Era passaggio, allora, andiamo un po', quando, 23:17, ma adesso. sera. No, no, stamattina c'era, stamattina era verso le 8:30, 9:00. Poi dopo casa, visto che sono entrato, era un po' caldo, ma... E l'ha ammazzato. Ma come non avevo fatto la fuga di notte, questo c'è stato mattino qua sotto. Sì, io so. Altra mattina ho aperto. Sì, altra mattina ho aperto. Ma sapevo non ci devo scendere la ciccia ogni volta pigliato da banco, non ho mai avuto i coglioni, ragazzo. Non per la scelta, la discesa è facile, ma la salita, ragazzo. Quello che è bello. È fa piacere. A piacere, ho aperto un tabacco lì vicino, almeno sto lì a... Ma dopo me ne parla con quel testa del miele che c'è lì vicino a casa. Faccio due passi in più e sono più tranquillo. Va bene, va bene, va bene, dai. Io vi lascio definitivamente, dai. Guardati la parte mia, perché domani se non manco le chiamo avanti. Ciao a te, alle prossime. Ciao Sabino, ricordati di me. Io mi imbarca, cazzo, così tanto non so, non so fare con la paura che ho, cazzo, sono l'unico che sono asciutto al centro. Esagerato. Cazzo, una volta sono andato me in barca, una volta con 3CB. Siamo andati, era un po' più d'estate, allora c'erano i casotti di appartamento. Il fattore di San Giovanni, io vieni là con cosa, con dove sciopera, va. E poi c'era un altro CB, non mi ricordo come si chiamava, cioè, eravamo in tre, in quattro eravamo in barca. Ah, sono in cesso per farsi questo mare. Cazzo, come lui salivo al coso, andiamo alla riva. Aspetta, aspetta, faceva che... Guarda che caspichetto, cazzo, mi sto andando bagnando. Non mi asciutto io, cazzo. Ma no, se si ha paura è meglio non salirci sulla barca. Vuole essere tranquillo, nervisati, via dicendo, e soprattutto bisogna saper nuotare, soprattutto, quella è la cosa più importante. Ma io non ci salgo in barca, Marco, se mi paghi, te lo sto dicendo, da quella volta io sono bisogno di in barca. Prima che arrivo tranquillamente, perché quando lavoravo alla termipotinaria facevo installazioni di cose non mi facevano nessun effetto nelle barche, capito? Andavo su, scendevo dentro, facevo il lavoro, volevo fare cose arrivavo, quindi come si chiama il radio balà? A volte provavamo anche, facevo mettere in moto la barca, perché riparavamo le coppe sentine, e dicevo a cosa, mi trovo la barca, mi facevano chiamare la volta, e sono andato così, ma anche io adesso non muovo più. Se vuole andare quando in barca, allora a pescare, io già sono in spiaggia, faccio il fuoco e aspetto che papà vada proprio a cucinare. Positivo. E beh, normale, se si ha paura è meglio non evitare, perché pure il panico è ancora piccio. Ripeto così, va bene, detto questo vi saluto definitivo, buonanotte, ciao Sami. Ci si vede, dai, faccio un capito. Ciao, buonanotte, alla prossima, ciao. Ciao Anto, ci dà una mattina lì. Ma non è vero, devo lavorare, giusto? Ha pagato, domani pomeriggio ci sentiamo, va. Ciao Anto, alle prossime, ciao Sabino, ciao. Ciao Anto, ciao, ci sentiamo. Sapete che mi sta messaggiando. Ehi, quando lo senti saluto. Ciao Anto. D'accordo. Che ragazzo. Ma vado già, come si dorme bene, stanotte c'è freschetto. Ci voglio solamente gli UFO adesso, siamo a posto. No, ma avessi avuto una bella, come si dice, cassetta di birra, se ne sta tutta notte, c'è quella dieta bella, fine fine, come piace a me. Sì, è stata ben curato l'altra volta con la dieta così. Siamo 4 lattine, l'ho dovuto piano piano, con gusto, cazzo. Bene, era un frigo, non mi ripeso, c'avevo il crampi alle gambe, come mi sono alzato, ma la comunità che c'era, era un freddo unico quello che era. Non c'è ragione, ma faceva piacere. Era fino. Mi sono seduto lì, qualcosa, una tavolina con la birra, cazzo, ma incurato la mattina. Mi sono dovuto prendere l'aule, perché mi sono venuto in trappa le gambe. Poi ci ho andato a pegare, quando sono andato in bagno con qualcuno non ci sono riuscito a pegarmi, figurati. Sì, non ci credo, ci credo. Quelli sono lettori, cose, ma lì si ammazzano, vanno così come stare dentro casa, con la giusta temperatura, e via dicendo, si bevono la sua mesettina, ciccia, ma no, ci danno un terrazzo così, no, fate il sereno, è quello che ti frega, capito? Perché ti sembra che stia, cioè, che l'organismo stia bene, invece no, è lì che sta la pregatura, capisci? Sì, peccato, queste cose l'ho preso da quando abitavo in San Donato, ma manco non seguivo niente, uscivo in moto, pigliavo freddo, mi alzavo una mattina tranquillo senza aver dolori, adesso invece, come per la terra per la di umido o cosa del genere, dopo mi vengono questi dolori articolari e non riesco mai a piegarmi. Allora dopo piagnuravo, devo aspettare 2 ore per potermi piegare del tutto, capito? Se no proprio i muscoli mi piace, specialmente questo percorso, perché quando vai a respirare da loro non ce la fai respirare. Sì, sì, ma ci credo, quelli sono, si chiamano così, colpi d'aria e bisogna stare attenti, molto molto attenti. Va bene, ok, detto questo, correttivo definitivo da parte mia, alle migliori e a stare a domani se è così, dai. Ciao Antonio, saluta la San Vito se lo dovessi sentire, ciao. Sì, ciao Antonio, se vieni a San Vito già te lo saluto, c'è problema. Ok, ciao ciao ciao. Ciao ciao Paolo. Sempre quando sono in bagno che addienti, oppure quando sto facendo qualche pianto d'antenna.